matto, alla sole matto, e vola pali matto, e c'è fora ta uento. A prego di tingo sulingan, o pola kelingan, o pola li, o pola kelingan. Eso te le alla sole tempe, e o c'ho sole tale. Esok dele ala sore tempe.